Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo e ascolteremo per alcuni aspetti anche commenteremo le parole di Mario Draghi sui rischi di crescita per l'area euro. Draghi ha anche aggiunto che la Banca Centrale Europea non può farsi carico della ripresa da sola e occorre che agiscano i governi e le istituzioni europee. Ha dato un commento positivo sul piano Juncker, che, come voi sapete, chi ha ascoltato le puntate di questi due, degli ultimi due giorni, tre giorni, noi siamo molto scettici sulla reale portata efficace di quel piano. Ha chiesto però che abbia le dimensioni giuste, che gli investimenti partano velocemente e sui settori che più impattano sulla crescita potenziale e quindi che hanno più capacità di effetto volano e tra virgolette redistributiva. La disciplina di bilancio non basta contro la crisi, questo invece è il monito che è arrivato da Mario Draghi, riferito al solo rigore e austerità. Disciplina di bilancio vuol dire il deficit che deve azzerarsi e il debito che deve scendere al 60%, condividere la sovranità delle politiche economiche, e poi ha aggiunto: oltre alla Banca Centrale Europea serve uno stimolo al bilancio dell'area euro nel rispetto del patto. Di questo parleremo però anche dell'inchiesta Expo 2015, perché il gruppo di Milano ha accolto oggi le richieste di patteggiamento avanzate dai sei imputati e già concordate con i PM nell'ambito dell'inchiesta sulla cupola degli appalti, tra cui c'è il famoso ex DC Gian Stefano Frigerio, pena 3 anni e 4 mesi, e anche per l'ex PC Primo Greganti c'è una pena simile. Frigerio però dovrà anche dare un risarcimento di 10 milioni di euro. Parleremo però anche di turismo e quindi anche di Expo. Per un indicatore che presenteremo subito, è il secondo anno che lo presentiamo, fa parte di quegli indicatori di carattere, diciamo così, empirico, che però hanno una grossa correlazione con l'andamento reale dell'economia. Sapete che ci sono, oltre al PIL in senso stretto, ci sono altri indicatori che ogni tanto utilizziamo, per esempio il Baltic Dry Index, che va a misurare il prezzo di nolo di un cargo. E quanto costa la tratta per il noleggio è un indicatore importante di come sta andando l'attività economica. Quando cresce quell'indice, cresce anche l'attività economica. C'è poi il mitico Lipstick Index, che è l'indice dell'utilizzo dei cosmetici, più volte ricordato, e poi c'è un indicatore che mette in relazione l'attività dei viaggi d'affari con quello che poi è l'andamento dell'attività economica. La correlazione, cioè quanto questo rispecchia poi il reale andamento dell'attività economica, è molto alta. Di questo parleremo oggi, parleremo, dicevo, anche del petrolio e visto che sul petrolio di nuovo ci sono state tensioni. Si è svolto questo pomeriggio a Vienna l'atteso incontro dei paesi produttori dell'OPEC. I 12 paesi che gestiscono in totale il 40% delle estrazioni ma il 60% delle esportazioni si sono riuniti per discutere su un accordo sull'estrazione, ma come previsto hanno deciso di lasciare invariata la quantità di petrolio prodotto, quindi è fissata a 30 milioni di barili al giorno. Con la conseguenza che il prezzo del petrolio, quello del Texas, il WTI, è sceso ulteriormente a $70 al barile, è ai minimi da 4 anni a questa parte. Pensate che negli ultimi 3 mesi il prezzo del petrolio ha subito un calo del 23%. Malumori all'interno dell'OPEC, che c'era chi infatti voleva ridurre la produzione, ma ripeto, la linea che l'OPEC sta tenendo può sembrare paradossale, ma in realtà è molto cinica, nel senso che punta ad avere un prezzo del petrolio che cala così tanto da non rendere conveniente l'estrazione con lo shale gas e le sabbie bituminose da parte dell'America, che sta garantendo all'America la quasi totale indipendenza dagli approvvigionamenti di altri paesi. Certo, poi se andiamo a vedere i prezzi del petrolio praticati, perché il petrolio non è uno, ha molte diverse qualità, si va e oltre alle qualità ha anche diversi costi di estrazione, sia per il paese sia per dove è collocato il giacimento. Si va, dicevo, dai 184 euro della Libia ai 54 euro del Kuwait, quindi come prezzo minimo al barile per restare in attivo in questi paesi. Ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Borsa, come sempre, in apertura per quello che riguarda Piazza Affari, in questo momento rialza dello 0,70%, tra i migliori in Europa, Parigi più 0,20%, Francoforte più 0,50%, Londra invariata, euro sotto quota 1,25, 1,2470. Tra i titoli, bene, World Duty Free più 3,60, Atlantia più 2,80, Pop Emilia Romagna più 2,30 come il Banco Popolare, Mediobanca più 2,20, Enel più 2%. UbiBanca, Telecom e Buzzi Unicem in rialzo dell'1,90%. Bene anche i bancari oggi, Unicredit più 1,70 come Intesa San Paolo, gli energetici Enel Green Power più 1,5, ma c'è il caso di Eni, dovuto appunto alle notizie che ricordavamo sul petrolio, meno 2,40%. Eni è il titolo maggiormente negativo tra quelle di maggiore capitalizzazione. Prysmian infatti perde lo 0,90, il Monte dei Paschi lo 0,50%. Di Mario Draghi abbiamo già detto e vi torneremo. Per quello che riguarda il prezzo del petrolio, segnalo, visto che già vedo molti messaggi, che era parte anche del commento dei 100 secondi di Radio 24 che in accordo con RDS e Radio Dimensione Suono vengono trasmessi ogni mattina alle 9 poi alle 17. Il commento è fatto dal vice direttore del Sole 24 Ore, oggi era la volta di Alberto Rioli, vice direttore appunto del Sole 24 Ore, proprio sui temi dell'OPEC. Scopri le automatiche Saeco con macine in ceramica per offrirti in ogni momento il tuo espresso autentico. Saeco regala Pellini. Regolamento su philips.it/promozioni. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Parliamo di petrolio. La riunione dell'OPEC, l'organizzazione che riunisce i principali produttori di petrolio che è in corso a Vienna, è meno burocratica del solito, anzi, forse stavolta ha davvero una portata storica. C'è troppo petrolio nel mondo, l'economia non tira quanto dovrebbe, le legislazioni ambientali riducono i consumi di greggio, gli Stati Uniti sono diventati un produttore di tutto rispetto in grado addirittura di esportare greggio e fanno ormai concorrenza diretta ai signori dell'oro nero, i quali devono naturalmente tagliare le produzioni per far alzare le quotazioni, ma sono divisi e non trovano un'intesa al loro interno. L'America di Obama punta sull'indipendenza energetica e vuole ridurre a zero le importazioni di petrolio e ha raddoppiato la propria produzione interna e riesce a esportare addirittura ormai 4,5 milioni di barili quotidianamente. Gli USA lo possono fare perché estraggono il nuovo petrolio, il cosiddetto shale oil, dalle sabbie e dalle rocce, ma ciò resta possibile solo se il prezzo del greggio rimane su certi livelli, altrimenti non si creano i margini finanziari per pagare gli investimenti nelle costose trivellazioni di ultima generazione. E quei margini ci sono se il prezzo del greggio oscilla intorno ai $100 al barile, mentre oggi è sceso clamorosamente a 75. Anche i paesi OPEC, in realtà serve un petrolio intorno ai $100 per finanziare le costose esigenze di politica interna, ma nel contempo hanno anche interesse a tenere basse le quotazioni proprio per boicottare la politica energetica di Obama. Finora questo gioco al ribasso si è rivelato pressoché insostenibile, solo l'Arabia Saudita sarebbe in grado di poter continuare su questo percorso rischioso per gli altri che infatti hanno spaccato il cartello. Insomma, bisogna dire che dai lussuosi alberghi di Vienna questa volta emerge solo una certezza, il fallimento della riunione. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it. Ancora due notizie in breve, poi arriveremo ai temi di questa giornata. Per quello che riguarda invece la borsa, molti vi fanno notare di Saipem. Io ho solo detto che tra i titoli a maggiore capitalizzazione quello che perde di più è Eni. È chiaro che Saipem perde il 4,40% per gli stessi motivi, anche Tenaris è meno 3,5%, però Eni è obiettivamente, con alcune banche, il titolo che capitalizza più in borsa. Ripeto, poi vi arriveremo nel corso del commento sui mercati finanziari. Sulla vicenda invece LuxLeaks, quindi le accuse anche a Juncker quando era presidente di Lussemburgo. Il Parlamento europeo ha confermato la fiducia a Juncker, ha respinto la mozione del Movimento 5 Stelle con l'UKIP e con gli, che era firmata anche assieme agli euroscettici di destra. Inflazione, hanno un bel dire, chi era? Era la Bundesbank o Weidmann, Bundesbank, tre giorni fa, che diceva: beh, l'inflazione, la deflazione non ci sembra un grosso problema, è molto esagerata l'importanza di questo calo dei prezzi o non crescita dei prezzi. Beh, attenzione, oggi la Germania scopre che l'inflazione a novembre in Germania frena lo 0,5%, ossia ai minimi dal febbraio del 2010, e si avvicina veramente al tema della deflazione, perché lo 0,5% è un livello considerato non accettabile dai parametri della Banca Centrale Europea, mentre è peggiorata ulteriormente in Spagna, dove siamo in deflazione secca, meno 0,4% a novembre rispetto all'anno prima. E si era ridimensionata in Spagna la deflazione, da meno 0,2 a meno 0,1, invece è tornata a fare meno 0,4%. Poi parleremo dell'evasione fiscale, delle dichiarazioni del ministro Padoan e anche del ministro Poletti, oltre che del presidente del Consiglio Renzi. Adesso però, prima di arrivare all'indicatore, come ricordavo, empirico, però con una fortissima correlazione statistica, come dice chi ha studiato, cioè quello, come si muove quell'indicatore è parallelo, se uno mette un grafico, come si muove l'indicatore sul PIL. Due o tre notizie, mi dispiace tornare sulle nostre regioni italiane. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. A passare, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, che più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, che più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Allora, oggi spero di importare almeno un po' di allegria nella disperazione con questo tempo, soprattutto al nord. Partiamo da Ancona, dove a Falconara Marittima, alle porte di Ancona, c'è l'aeroporto, c'è forse l'appalto più fantasioso della storia. Forse potremmo iniziare a esportare anche questo tipo di appalti. Che cosa succederà? Praticamente verrà realizzata una ferrovia a binario unico, lunga 6 chilometri, che sembra più da Disneyland che da ferrovie vere e proprie, ma la cosa bellissima è che attraverserà placidamente l'intera pista di decollo dell'aeroporto di Falconara Marittima, con i piloni del viadotto ben piantati, tra l'altro in una delle aree a maggior rischio idrogeologico, con un costo di 180 milioni di euro. Quando l'aereo decollerà da Falconara, il treno dovrà aspettare. Ora, noi abbiamo visto cose analoghe con i passaggi a livello, però non so se sia un nuovo modo di avere un trasporto integrato. Magari l'aereo aspetta, scendono i passeggeri sulla pista, si imbarcano sull'aereo. Ora, purtroppo, al di là della cosa paradossale, la storia è tutta vera. Inizia nel 1997, quando si cerca una traiettoria ferroviaria alternativa a quella che attraversa i serbatoi dell'API, le grandi raffinerie di Ancona. Si stanziano 63 miliardi delle vecchie lire per l'opera. La Regione Marche nel 2001 affida il progetto a RFI, quindi alle Ferrovie dello Stato, e paga mezzo miliardo di lire, 250 mila euro, per vederlo redatto. Poi però iniziano a scrivere i comitati dei cittadini: attenzione, c'è il rischio che la ferrovia intralci le attività dell'aeroporto. E aggiungono vari comitati: state costruendo su una palude con un indice R4 di pericolosità. Sembra Indiana Jones sta roba, però in realtà non capita niente. Poi viene allocata una cifra dal governo Berlusconi di 210 milioni di euro, era anche questa un'opera strategica. Nel 2008, governo Prodi, il ministro alle infrastrutture Di Pietro rassicura i comitati locali: il tracciato ferroviario esclude interferenze con il cono di volo e il sentiero luminoso dell'aeroporto. In realtà così non è, perché adesso il tracciato passa proprio sulla pista di decollo, tant'è che i tecnici dell'ENAC, dell'ENAV, dell'ente del volo, fanno sapere che bisognerà prevedere limitazioni alla velocità dei treni e non dovranno passare vagoni con merci pericolose mentre l'aeroporto è in attività. Cioè i macchinisti dovranno, non sto scherzando, fermarsi, dovranno viaggiare a velocità ridotta, fermarsi al semaforo, attendere il decollo e poi e tra l'altro potranno caricare solo alcuni tipi di merci. Io mi immagino la scena. Vabbè, andiamo alla Basilicata, perché in tema dei rimborsi i nostri consiglieri regionali non ne vogliono sapere. Allora, in Basilicata c'è un'inchiesta della magistratura nella saga Rimborsopoli. C'è stato chi, addirittura come l'ex consigliere dell'Italia dei Valori Antonio Autillio, si è fatto restituire dalla regione anche il denaro per il concerto di beneficenza di Massimo Ranieri con la trovata delle spese di rappresentanza. Ora, io la trovo una delle cose più vergognose che ci possono essere. Cioè, vuoi andare a ascoltare Massimo Ranieri? Vai e paga. Vuoi dare i soldi in beneficenza? Perfetto, un bel gesto, usa. Ma dare i soldi in beneficenza per ascoltarti il concerto di Ranieri e poi caricarli sui contribuenti è veramente di una meschinità, non ho timore a dirlo, inusitata. Ieri la procura ha notificato 23 avvisi a conclusione delle indagini, compresi a due consiglieri poi rieletti. Allora, tra chi è stato rinviato l'attuale sottosegretario alla salute Vito De Filippo, ex governatore, così come l'attuale Marcello Pittella, così come alla condanna a un anno e sei mesi è stata invitata Attilio Martorano, che aveva scelto il rito abbreviato. Nell'elenco delle spese pagate con i soldi dei contribuenti c'era di tutto: le tovaglie di Natale, notoriamente si usano per l'attività politica, i divani, anche quelli si usano per l'attività politica, poi non specifichiamo quale, passando per le creme antirughe, gli hotel di lusso, poi c'è due ristoratori hanno anche rilasciato fatture gonfiate, sono finite nell'inchiesta, perché c'è, non so, Luigi Scaglione del Centro Democratico ha presentato una ricevuta da 280 euro nella quale c'erano 160 euro di scampi freschi. Dico, se questo fa parte dell'attività politica. E poi sempre lui in un sol giorno ha presentato sei fatture in ristoranti tra Milano e Potenza. E qui torniamo al tema già visto con i consiglieri, gli ex consiglieri del Piemonte, del teletrasporto, per cui tu riesci a mangiare in sei posti diversi a distanza, insomma, tra Milano e Potenza. Ma c'è questo teletrasporto che usano molti consiglieri. E poi c'è chi si è fatto rimborsare la rata dell'automobile comprata in leasing, i lavaggi, le riparazioni. E poi c'è l'ex assessore Rosa Mastro Simone. Nella lista dei suoi rimborsi pagati con i fondi della regione, quindi con i fondi nostri, ci sono profumi, farmaci, articoli da regalo, abbigliamento, cornici, tabacchi, fiori, gioielli, pelletteria e pure la riparazione di una TV. Mi sembra che, insomma, manchi poco alla lista della spesa. Ma ciò nonostante, dopo l'avanguardia della Lombardia, continuano gli ex consiglieri regionali del Lazio, della Lombardia, del Molise, del Trentino a fare ricorso contro la decurtazione dei vitalizi, che ripeto, per noi già non dovrebbero esistere, la decurtazione in Lombardia del 10% degli assegni, ricorsi di tutti gli ex consiglieri. Anche in Trentino Alto Adige, non contenti di avere una regione a statuto speciale, ben amministrata, ma coi soldi degli italiani, che non sono i contributi degli altoatesini dei trentini, 51 ex consiglieri hanno avviato una battaglia giudiziaria contro la richiesta di restituire parte delle somme incassate, perché li assiste l'ex presidente della Consulta Giovanni Maria Flicche. Vabbè. Le cifre, tra l'altro, che erano così generose che la stessa regione aveva chiesto la differenza, in medio il 28%, no, loro vogliono il rispetto dei diritti acquisiti. Poi ci sono anche gli ex consiglieri della regione Lazio, i colleghi di Fiorito, che in base alle vecchie norme potevano riscuotere il vitalizio a 50 anni, neanche i baby pensionati ci arrivavano, e dopo il versamento di appena 5 anni di contributo. Siccome è cambiata la legge da 50 a 60 anni, neanche 65 come detto all'inizio, 60, l'età minima per incassare l'assegno, alcuni di loro hanno preannunciato ricorsi a raffica. Ora, la cosa veramente che a mio avviso è paradossale, per non usare altri termini, è che in ogni regione esiste un'associazione degli ex consiglieri, no? Come c'è l'associazione degli ex combattenti, degli ex consiglieri. Vabbè. La cosa che mi fa impazzire, per non usare un'altra parola, è che non si mantiene con le quote dei soci, ma anche con i contributi dei consigli regionali a cui ora fanno causa. Per cui tu stai facendo causa tramite un'associazione che becca i soldi da noi per ottenere i privilegi che giustamente la stessa regione ha cercato di limitare. Guarda, è il massimo, Tra l'altro la regione mette a disposizione strutture, spazi e personale. Pensate, l'associazione degli ex consiglieri del Lazio che tuonano contro questa legge ha ricevuto a dicembre 2013 un contributo di 10.000 euro e occupa alcuni uffici nel centro studi Carlo Iemolo della regione, con tanto di segreteria, dipendente, tutto stipendiato dal consiglio regionale. Guarda che è il massimo. Cioè, io dico ai governatori delle varie regioni, ma eliminate sta cavolo di associazione. Se sono associazioni, sono private, si pagano i loro spazi e faranno i ricorsi per i vitalizi. Poi indichino anche bene l'indirizzo dell'associazione degli ex consiglieri regionali, perché magari qualche ascoltatore è anche interessato a sapere dov'è che hanno sede. Due notizie in breve, poi andiamo agli indici seri sull'economia. Allora, io vorrei sapere come ha fatto il comune di Eboli. Qualcuno si ricorda Carlo Levi, dove si fermò Cristo, ad avere una bolletta telefonica da 18.000 euro, praticamente quasi tutta per telefonate all'estero. Cioè, se ne è accorta il commissario prefettizio del comune, che è subentrato al sindaco dopo lo scioglimento del consiglio comunale, Vincenza Filippi. Lei ha pensato a un errore di fatturazione, ma in realtà era dovuta a un numero spropositato di schede telefoniche pagate dall'ente a assessori, consiglieri, dipendenti. C'è un assessore che telefonava all'estero per 1.000 euro al mese e poi politici con 5 schede. Mentre chiude a Palermo, a Bagheria, il Museo Gottuso, perché la Galleria d'Arte incassa 20.000 euro, ma le spese sono di 480.000 euro, in una regione, mi riferisco alla Sicilia, e ho veramente finito, per evitare di avvantaggiare la ditta che produce il Malox, in una regione in cui non ci sono i soldi per le lampadine dei musei, ma grazie alla mitica sanatoria che nel 2000 c'era Cuffaro, no? Vado a memoria, ma dovrebbe essere stato Cuffaro nel 2000, promosse 1.000 funzionari alla qualifica di dirigente. La Sicilia non ha le lampadine per i musei, ma ha più dirigenti dei beni culturali dell'intero Ministero Italiano dei Beni Culturali. Sono 306 dirigenti contro 191 quelli del Ministero dei Beni Culturali, comprese le sovrintendenze e i siti. E la maggior parte di questi dirigenti, la maggior parte nel curriculum vanta, nei curricula vanta qualunque tipo di laurea, tranne che storia dell'arte, antropologia o archeologia. Basta, basta, basta. Meteo, pubblicità e poi andiamo a vedere come sta andando la correlazione tra spese per viaggi d'affari da parte delle principali società italiane e andamento del PIL, perché vorremmo avere un indicatore ulteriore di quelle che sono le previsioni, sempre un po' ballerine, per il 2015. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta. Allora, nel frattempo il prezzo del petrolio è sceso anche sotto i 69,91 dollari al barile. Ma dicevo, esistono indici che hanno una grossissima correlazione con quello che accade al PIL. Uno di questi, gli altri li ho già citati, il Dry Baltic Index, l'ha sviluppato il gruppo UVET, che è il principale gruppo in Italia per quello che riguarda i viaggi d'affari, la business travel, come si chiama in gergo. È con noi l'amministratore delegato del gruppo UVET, Luca Patanè. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Dunque, ci racconti questo indicatore, perché ha una correlazione. Allora, cosa vuol dire correlazione statistica? Dico banalmente, va da 0 a 1. Se è 0 vuol dire che hai 0 possibilità che quel tuo indice sia in qualche modo spieghi e anticipi l'andamento dell'economia. Se uno, ha il 100% di possibilità. Allora, qual è la correlazione tra l'indice che avete sviluppato sull'andamento del viaggio d'affari, e quindi quanto si spende, quanti viaggi d'affari in Italia, e l'andamento del PIL italiano? È il 93%, lo 0,93%. Quindi, se la curva dell'indice dei viaggi d'affari si muove in un certo modo, io ho il 93% di possibilità che si muova così anche il PIL. Esatto. Devo dire che io che ce l'ho sotto mano... Beh, se guardiamo i due grafici, la correlazione è praticamente, sono due curve sovrapposte. Come realizzate l'indice? Poi veniamo alle previsioni sul 2015, che mi interessano particolarmente, perché di OCSE, FMI e Istat ci fidiamo, ma integriamo, ma non troppo. Prego. Noi abbiamo realizzato l'indice, abbiamo iniziato nel 2006 a questa raccolta dei campioni sulle nostre aziende, e da oggi al 2014 abbiamo circa 700 aziende che rappresentano un indice estremamente importante per la realtà italiana e quindi per le spese dei viaggi d'affari. Oggi come oggi, diciamo, dovremo chiudere il PIL del 2014 a meno 0,37, queste sono le indicazioni che vengono fornite dal nostro indice. E invece, che devo dire, meno 0,37 è veramente vicino a quello che si aspetta il governo, meno 0,3, cioè, sì. Insomma, stiamo parlando di neanche di decimali, prego. Invece le previsioni che abbiamo fatto per l'anno venturo sono raccolte anche dalle interviste che abbiamo fatto con le aziende su quanto le aziende per l'anno venturo vogliono investire nei viaggi d'affari, quindi l'indice per l'anno venturo è stimato sul 0,7, più 0,7. Ecco, allora un attimo, voi avete quante aziende sentite? Italiane chiaramente? Sì, sono italiane multinazionali ma presenti in Italia. Certo, 700 più o meno? Sì, sono 700. E visto che l'indice ha una storia che va dal 2006 in poi, alcune immagino che purtroppo le abbiate dovute sostituire, non penso sì, che tutte certo, siano rimaste... Certo. Ecco, quindi avete... Abbiamo neutralizzato, diciamo, l'effetto delle entrate e delle uscite, abbiamo mantenuto, diciamo, l'indice omogeneo. Su un totale di 1500 aziende che si servono di noi, sono circa 700 le aziende che abbiamo neutralizzato. Allora, se c'è una correlazione così forte, lei mi dice nel 2014, che ormai sta finendo, meno 0,37, più o meno ci siamo. Per il 2015 invece voi siete, io non voglio diffondere ottimismo perché non, diciamo, è un programma fin troppo realista questo, però avete indubbiamente una stima del PIL sulla base di questo andamento, sulla base di questa curva che segue in maniera quasi parallela all'andamento poi reale del PIL, e voi, e quindi c'è un'affidabilità molto alta del 93%, avete una previsione che è decisamente migliore sia di quelle che abbiamo visto circolare, penso all'ultima dell'OCSE 02-03, che è quella del governo che dice più 0,5, voi arrivate a più 0,7? Sì, noi arriviamo a quello, è frutto anche proprio di che abbiamo fatto presso le aziende per vedere gli investimenti per l'anno venturo in viaggi d'affari. Calcolate che c'è anche una correlazione fra gli investimenti in viaggi d'affari e le esportazioni della nostra industria, del nostro paese. Ovviamente più si viaggia, più si esporta, e soprattutto più si esporta, sì, in certi paesi. Dal mio punto di vista assomiglia molto, ricordo molto, con tutte le mutatis mutandis, con tutte le differenze del caso, ricordo molto il Dry Baltic Index, che misurando il costo del noleggio di un cargo ti dà un indicatore di come si sta muovendo l'attività economica. Venendo però, visto che ricordavo che voi come UVET siete il primo operatore in Italia quanto viaggi d'affari, io vorrei capire anche nella vostra esperienza, poi dopo arriviamo all'Expo, perché dobbiamo parlare di Expo anche per certo, motivi giudiziari, ma nella vostra esperienza, cioè, vi ritrovate in questo indice? Nel senso che un conto è mettere assieme le richieste di 700 società anche multinazionali con sede in Italia che usano diverse agenzie di viaggio, tra cui immagino anche la vostra, ma non solo, e un conto è poi vederle trasposte nella vostra attività tutti i giorni. Sì, sì, noi abbiamo visto che c'è una correlazione abbastanza fedele da quando abbiamo iniziato a osservarla, da quando abbiamo iniziato a capire la dinamica di questo indice, quindi anche la dinamica delle spese, la correlazione indubbiamente è abbastanza... E quindi positiva. Vedete anche voi un aumento delle richieste per il 2015? Sì, noi vediamo un aumento in funzione anche dell'Expo, che ne parleremo dopo, ma io penso che sia un acceleratore di queste spese di viaggio, anche dell'Expo, perché farà venire viaggiatori da noi e del business nostro che andrà all'esterno, sia per quello che per diciamo anche perché è prevista a livello delle aziende anche un ritmo di spesa superiore nel secondo semestre. Quindi, secondo le aziende, vedono i primi due trimestri abbastanza normali, neutrali, più o meno come sono adesso, e una crescita successiva. Questo è quello che ne emerge sia dai dati nostri, ma anche appunto dalle interviste qualitative che abbiamo fatto. Allora, veniamo invece adesso all'Expo, perché sull'Expo parleremo di chi l'Expo è sul cibo. C'è chi ha mangiato prima ancora che partisse l'Expo e oggi ha patteggiato, Frigerio and Company. Però non è quello il cibo e il feed the planet e sfamare il pianeta. Qui sfamavamo i soliti noti. E speriamo che non ce ne siano più di persone che verranno beccate a mangiare prima ancora che si apra l'Expo e si parli del cibo. Il tema, da quello che vediamo, comunque un tema più che azzeccato, le adesioni sono tantissime, ma questo ce lo faremo raccontare poi dai responsabili dell'Expo. Dal vostro punto di vista, su quello che chiamate in gergo incoming, cioè quelli che devono venire dentro, devono venire, scusatemi, in Italia, i dati e le prenotazioni che avete sono confortanti? Perché poi, al di là di quello che dichiara l'Expo, vorrei conoscere i vostri. Ma guardi, negli ultimi mesi diciamo si è risvegliata una grossa richiesta da parte dell'estero, perché tutto va con la comunicazione che è stata fatta in questi paesi ha iniziato a avere un grosso rimbalzo, una grossa curiosità. Il tema è affascinante, e siccome è affascinante il tema, la curiosità sul tema e la curiosità sull'Expo ne deriva. Noi, da quello che abbiamo visto, noi abbiamo investito su alcuni paesi, soprattutto il continente americano, sia Nord America che Sud America, che l'Europa, abbiamo iniziato a vedere degli interessanti ritorni di domanda, e quindi iniziano sia le aziende a chiederti. È vero che voi avete prenotato 1 milione di stanze room night, se conosco bene il gergo, per tutta la durata dell'Expo, per i 184 giorni della durata dell'Expo. Sono 3.000 camere al giorno? Sì, più o meno 3.000 camere al giorno a Milano e ovviamente anche i dintorni. Ma il 10%, ma queste perché immaginate che arrivino così tante persone dall'Expo? O le avete prenotate in generale per i vostri clienti? No, guardi, abbiamo iniziato a pensare ai nostri clienti, perché li serviamo da tanti anni e ci teniamo di dargli una sicurezza nei loro spostamenti. Scusi, mi faccio capire, ma i vostri clienti che vogliono venire all'Expo, o i vostri clienti che come sempre hanno bisogno di una camera a Milano perché hanno da incontrare devono incontrare qualcuno, un cliente o certo, quello che è, o fare un congresso, e rischiano di non trovare posto per l'Expo? Esatto, abbiamo pensato prima ai nostri clienti che vogliono fare un business a Milano o as usual vengono a Milano per svolgere la propria attività, e poi anche quelli dell'Expo. Voi temete che la presenza all'Expo sia così alta che vi possa essere poi un problema a trovare una camera in un vostro cliente abituale in quel periodo maggio-settembre, maggio-ottobre in realtà, per cui avete già prenotato in anticipo le camere nel caso uno debba venire a Milano comunque per lavoro, che non c'entri nulla con l'Expo? Anche. Dopo il traffico vorrei capire da dove arrivano i segnali più interessanti, perché l'incoming appunto può essere anche un incoming fatto su base nazionale, ma di solito è quello estero su Italia. Beh, noi abbiamo pensato che ad esempio sul padiglione americano, dove abbiamo investito 2 milioni di dollari proprio voi? Siamo stati i primi sponsor sul padiglione americano, abbiamo fatto un grosso investimento sull'America e quindi sul continente americano, ci crediamo. Dopo il traffico, l'ultima domanda a chi mi chiede però qual è la correlazione tra questo indice e quello che poi realmente è successo. No, forse non mi sono spiegato bene. Le curve dal 2006 a adesso sono praticamente identiche, quindi la correlazione è alta, perché si è visto in questi anni che quello che l'indice andava a stimare, quello che poi effettivamente capitava al PIL, erano due curve praticamente sovrapponibili. Quindi è quasi sempre successo, o meglio, c'è una correlazione altissima tra questo. Comunque, traffico. Allora, Patanè, ultima domanda. Da dove arrivano i segnali più importanti per l'Expo? E questo mi interessa moltissimo, perché vedo alcuni che dicono: ma state diffondendo ottimismo. No, stiamo raccontando quelle che sono le previsioni di un indicatore che negli anni passati ci ha sempre azzeccato, per tradurla proprio pane al pane, vino al vino. Dopodiché, adesso non è che se c'è qualche indicatore positivo di un più 0,7 dobbiamo darci delle martellate, diciamo, su parti che non posso citare, perché mi sembra che di notizie negative ne abbiamo già abbastanza. Se ogni tanto c'è uno spiraglio, non autoflagelliamoci. Da quali paesi le indicazioni più interessanti e che cosa vi sta arrivando dall'Expo, anche come società Expo, come feedback? Prego. Ma il feedback dell'Expo, che comunque ha detto in questi giorni il Bistrel Forum, che ha venduto circa 7 milioni e mezzo di biglietti, che sono assolutamente una cifra ragguardevole, di cui 4 milioni e 2 dall'estero. Quindi sugli 8 milioni di turisti previsti per l'Expo, almeno un buon 50% in teoria è stato venduto a dei grandi distributori che poi dopo, ecco, lo venderanno. Ecco, per chiarire, l'Expo li ha venduti a dei tour operator, diciamo così, esatto, che poi avranno il compito di vendere le singole città. Sì, sì, sì. Cioè, non è di cui 500.000 li ho comprati io comunque. Ah, tutti lei, sì. Come mai? Perché quando uno crede in una cosa ci deve scommettere. Ho preso mezzo milione di biglietti. Ho preso mezzo milione di biglietti perché penso di poterli vendere agli stranieri. Se qualcuno manca il biglietto per l'Expo, andate da Patanè. No, ma dico, loro li hanno venduti dei tour operator che, certo, a loro volta avranno il compito di venderli veramente. Sì. Di fare sell out. Cioè, non è che ci siano già 4 milioni di stranieri pronti a venire. Non ci sono i nomi e i cognomi. Ecco, ci sono 4 milioni di biglietti comprati dai tour operator, uh-huh, che sono convinti di poterli collocare poi nei vari paesi. Esatto. Possono anche non farlo, o possono anche avere richieste superiori a queste. Faccio notare che l'Expo prevede su 21 milioni di visitatori, che la cifra iniziale ne prevede 7 di stranieri, quindi 7-8, quindi 4 milioni, insomma, non è non sei a metà del guado, però mancano ancora 5 mesi, 6 mesi per essere precisi. Immagine c'è. Delle richieste più interessanti, mi diceva, mi scusi? Ma guardi, le richieste interessanti vengono sia dai paesi in via di sviluppo, sia da paesi invece industriali classici come gli Stati Uniti, la Francia, Sud America. Noi stiamo lavorando con circa 18 paesi in questo momento. Per chiudere, me lo chiedono gli ascoltatori, hanno ragione, io stavo parlando di PIL, di indicatori spuri tra spese per i viaggi d'affari e andamento dell'economia, di Expo, però vogliono sapere, ma le vostre stime sul Natale, Capodanno? Le stime sul Natale? Qui, leisure, cioè viaggio diciamo di piacere, non d'affari. Ma guardi, dovrebbero ricalcare quello dell'anno scorso, quindi... Cioè deboli. Sì, non elevatissime, non elevatissime. Comunque l'anno scorso non era andato male comparato all'anno ancora prima, quindi noi prevediamo una crescita rispetto all'anno scorso del 2-3% sul Natale. Nelle spese di viaggio degli italiani, quindi. Sì, di vacanze degli italiani. Sì, sì. Cioè l'outgoing, come lo chiamate, in questo caso l'outgoing. Che va fuori. Va fuori, sì. Non uso il verbo di prima perché è ambiguo. Grazie a Luca Patanè, amministratore delegato di UVET Italia. Grazie. Grazie a tutti. Vabbè, ogni tanto respiriamo, perché tra le spese della Basilicata, l'aeroporto d'Ancona attraversato dalla ferrovia, i dirigenti della Sicilia che sono più di quelli di tutto il ministero, i dirigenti dei musei siciliani che sono maggiori di tutti quelli del ministero ai beni culturali, ogni tanto si respira. Adesso però torniamo invece a respirare meno, perché con Sara Monaci del Sole 24 Ore ci occupiamo di quanto ha accolto oggi il GUP di Milano, ossia le richieste di patteggiamento avanzate da 6 imputati proprio nell'ambito dell'inchiesta cupola appalti dell'Expo. Sara Monaci, buonasera. Sì, buonasera. Ti chiedo ancora qualche minuto di pazienza, perché ho il GR24, poi ne parliamo ampiamente, anche perché mi sembra che abbiano quasi tutti patteggiato, giusto? E a questo punto sì, manca soltanto uno. Chi? Diccelo. Rognoni, ex direttore generale di Infrastruttura Lombarda, che andrà a processo. Vabbè. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, Sara Monaci del Sole 24 Ore, di Expo abbiamo parlato con dati perlomeno previsionali positivi, stando ai biglietti, lo raccontava prima l'amministratore legato del gruppo UVET. Adesso continuiamo a parlare con te, perché hanno patteggiato, come tu ricordavi, quasi tutti gli imputati della cosiddetta cupola degli appalti, e quindi Frigerio e Greganti in primo luogo. Sara? Sì. Allora, stamattina il GIP di Milano Ambrogio Moccia ha accolto tutte le 6 richieste di patteggiamento. I nomi più celebri, come hai ricordato tu, sono quelli di Luigi Grillo, ex senatore di Forza Italia, ma anche di Primo Greganti, un nome già noto alle cronache nell'epoca di Tangentopoli. Poi c'è anche Gianstefano Frigerio, che era l'ex segretario della DC di Milano, e poi nomi che appunto sono spuntati proprio con l'inchiesta sull'Expo e soprattutto sui grandi appalti della Lombardia, quella che viene chiamata la cupola degli appalti. È il nome ad esempio di Enrico Maltauro, ex responsabile dell'azienda omonima che ha vinto appunto degli appalti, secondo i procuratori e quindi anche secondo il GIP, dietro atti corruttivi. Ha patteggiato anche il general manager di Expo, Angelo Paris, che era stato prima messo in custodia cautelare in carcere, poi domiciliare, adesso ha patteggiato 2 anni e 6 mesi. Lui era proprio il nome che dall'interno della struttura di Expo pilotava o cercava o sperava, diciamo, di pilotare l'andamento delle gare, con la promessa non di tangenti, in questo caso fu la cosa sorprendente, ma di promessa di carriera altrove, in altre aziende, una volta terminato Expo. Ancora ha patteggiato anche l'ex senatore del PDL Luigi Grillo, quello che fu reso celebre dalla vicenda dell'ex governatore della Banca d'Italia Fazio, ma non posso tornare su quello. Ha patteggiato 2 anni e 8 mesi, una multa di 50.000 euro. Ecco, un'ultima domanda: Rognoni invece non ha patteggiato e andrà a processo? Si non è capito? Ha patteggiato, nel senso che non ha proprio chiesto, ma il patteggiamento forte delle sue convinzioni, dicendo che andrà a processo, che ricordo sarà un rito immediato, quindi un rito che non passa attraverso l'udienza preliminare, ma va direttamente, quindi in forza di quello che i magistrati dicono di aver trovato già, direttamente davanti a un giudice di un processo ordinario. Rognoni è comparso 2 volte in 2 fascicoli che poi vediamo oggi essere, diciamo, ricomposto in un unico quadro. Il primo fascicolo a marzo, quello che avviò tutta questa serie di inchieste sui grandi appalti, prima di tutto su Infrastrutture Lombarde, che è la grande controllata della regione Lombardia, nata per volontà di Formigoni, è la partecipata che si occupa di grandi appalti di strade e di ospedali. Rognoni, il direttore storico, molto vicino a Formigoni e molto esperto di infrastrutture. Ecco, lui apparve per la prima volta nell'inchiesta di marzo, guidata dal PM Alfredo Ropedo. Il suo nome ricompare poi a maggio nella seconda tranche, questa volta l'inchiesta della Boccassini. Ecco, in questo caso Rognoni si trova coinvolto in questo secondo fascicolo, e in questo caso non sta chiedendo il patteggiamento. È un nome appunto che ricompare spesso proprio perché è stato ai vertici di una controllata che, di fatto, ricordo, non è soltanto una partecipazione regionale, è la quarta stazione appaltante italiana, quindi ha un bel giro di affari. Sì, e su questo appunto, come tu ricordavi, lui è l'ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde. Staremo a vedere poi come andrà il prossimo 2 dicembre il processo, come tu ricordavi, per rito abbreviato di Rognoni. Grazie intanto a Sara Monaci del Sole 24 Ore. La borsa oggi New York chiusa, Parigi più 0,20, Francoforte più 0,60, Milano alla fine più 0,80%, con una debolezza soprattutto dei titoli legati al petrolio, Eni meno 2%, Saipem meno 4,85%. Ma siccome ce ne occupiamo tra pochissimo come ultimo tema, World Duty Free invece più 3,70, Atlantia più 3,17, Pop Emilia Romagna più 2,50 come Banco Popolare, Mediobanca più 2,20, Unicredit più 2 come Intesa San Paolo e Telecom Italia, ma anche Enel e UbiBanca. L'1,90 lo guadagna Buzzi Unicem. Bene, le borse, grazie alle parole di Draghi, che ricordavamo in apertura, e uno spread sempre basso a 142 punti. Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. C'è anche un'altra notizia eccessiva, un'altra ipotesi che muove il mondo bancario, oltre allo spread in calo. Esatto, muove soprattutto il mondo delle popolari. Proprio oggi il Sole 24 Ore ha scritto che potrebbe essere costituita una new co tra alcuni istituti popolari, in particolare Biper, BPM, Popolare di Bari, Creval e Popolare di Vicenza, dove far confluire i crediti problematici. Si tratta di una somma attorno ai 500 milioni. L'ipotesi piace al mercato e ha premiato quindi soprattutto gli istituti popolari. E quindi per quello ci muovono bene anche le popolari, appunto Emilia Romagna e Banco Popolare in primis. Per quello che riguarda Finmeccanica invece ho visto la notizia, più 0,35% il titolo, di un contratto da $1 miliardo, no? Per 40 aerei. Esatto, poi in verità il contratto se l'è aggiudicato ATR, un consorzio di parte Finmeccanica, per Airbus. La vendita di questi ATR. Si tratta di un contratto importante, ma soprattutto il Premier Matteo Renzi ha detto che saranno in arrivo ulteriori investimenti nel settore aerospaziale, tutte ovviamente notizie positive per Finmeccanica. Ancora tra i titoli va molto bene oggi Yux, che è tornata a correre, ma bene anche World Duty Free per cento, e World Duty Free con più 3,70%. WDF si torna a scommettere che a breve possano affacciarsi all'orizzonte, diciamo, operazioni straordinarie, e quindi spesso il titolo strappa al rialzo. Per quanto riguarda Yux, oggi ha fatto più 1,2, ma ieri era andata molto bene. Morale, nell'ultimo mese il titolo ha guadagnato oltre il 25%. Ci sono gli acquisti natalizi che evidentemente il mercato scommette siano fatti prevalentemente su internet, e poi effettivamente anche le principali griffe, case di moda e di lusso, stanno facendo numeri, stanno facendo molto fatturato proprio sulle piattaforme internet. Ancora tra i titoli CNH, allora ieri era andata male, oggi più 1,41%, ci sono dei dati della CEA però sulle matricolazioni dei veicoli industriali, no? Sì, ovviamente ieri è andata giù perché la numero uno al mondo di Renko ha dato notizie e soprattutto previsioni poco confortanti per il settore delle macchine agricole. D'altra parte CNH produce anche veicoli industriali, e proprio oggi ACEA ha indicato che nel mese di ottobre c'è stato un bel balzo in avanti in tutta Europa, e in Italia addirittura c'è stato un progresso delle vendite del 16%, e quindi questo ha favorito il fatto che CNH alla fine ha rialzato la testa. Migliori e peggiori, Visibilia editore più 11,20, Go Internet più 9,90, Cofide più 6,70, Tiscri più 6,20, fronte opposto invece Saipem meno 4,80, Total appunto petroliferi meno 4,40, poi c'è Bialetti Industria meno 4,20, Ergi Capital meno 4% e Tenaris che citavamo. In effetti Tenaris, ma anche Total, ed Eni meno 2% e Saipem meno 4,85% si muovono sul fallimento, diciamo così, dell'incontro OPEC di oggi a Vienna, quindi tra i principali paesi produttori di petrolio restano invariate le produzioni. Fallimento perché c'era chi puntava a una riduzione delle produzioni per tenere alto il prezzo. Ne parliamo dopo il traffico, intanto grazie a Eleonora Micheli di Radio Corriere sulle 24 ore. Allora, nel frattempo il petrolio continua a calare, adesso siamo a un calo di quasi l'8% solo oggi, ed è sotto anche i $68 al barile a New York, quindi il WTI a $67,9 al barile come conseguenza del vertice OPEC a Vienna che si è tenuto questo pomeriggio appunto a Vienna. È in collegamento da Vienna l'inviata del Sole 24 Ore, Sissi Bellomo. Buonasera Sissi. Sì, buonasera. Domanda, un vertice davvero storico. Storico per la sua inconcludenza anche, comunque. Non lo so. Ecco, arrivo alla domanda, ti faccio una domanda volutamente così naif. È giorni che diciamo che probabilmente i paesi dell'OPEC non avrebbero abbassato la produzione fissata a 30 milioni di barili al giorno, anche se c'erano spinte, ricordo a tutti, alcuni paesi vogliono portare il prezzo del petrolio ancora più basso perché cinicamente vogliono far uscire da ogni logica di mercato, la produzione di petrolio, dello shale gas e lo shale oil, le sabbie bituminose, che sappiamo, lo spiegava bene anche Alberto Orioli nei 100 secondi di Radio 24 RDS, sappiamo che ci vuole un petrolio almeno intorno ai $100 per rendere vantaggioso quel tipo di estrazione e di produzione petrolifera, che è molto cara. Ora, perché tutta questa sorpresa? Perché in realtà l'OPEC è andata oltre le attese. Ormai sembrava abbastanza chiaro che non avrebbero fatto un grosso taglio di produzione, forse che non l'avrebbero fatto per niente, ma non solo hanno confermato lo stesso tetto produttivo, lo stesso limite di 30 milioni di barili al giorno che avevano già dal 2011, quando la produzione americana da shale oil forse era la metà di adesso, non penso di esagerare, ma non hanno neanche fatto un richiamo ufficiale, nel comunicato non c'è, non hanno fatto un richiamo al rispetto di questo limite. E questo è importante nel linguaggio dell'OPEC, e non hanno neanche convocato un vertice straordinario prima di quello che era già programmato per giugno. In più le dichiarazioni sono state molto chiare, il mercato regolerà domanda e offerta, regolerà i prezzi, lasciamo fare al mercato. Se ci pensiamo, è una cosa enorme da parte di quello che è un cartello, sposare la causa del liberismo in sostanza. Questo laissez-faire, questo lasciare fare al mercato, sposato come causa dall'OPEC e probabilmente su spinta dell'Arabia Saudita, che a questo punto è chiaro che sta facendo una guerra dei prezzi, vuole far chiudere le produzioni americane di shale oil, ecco, questa presa di posizione così estrema non era attesa, ha sorpreso il mercato ed è molto molto ribassista. Allora, tu stai descrivendo una specie di spaccatura all'interno dell'OPEC. Faccio notare che ogni paese dell'OPEC ha un suo prezzo di break even, cioè il prezzo minimo al barile che a lui serve per restare in attivo, quindi per continuare a estrarre senza perderci. Si va dai $184 al barile della Libia, il prezzo di break even dipende dalla qualità del petrolio estratto, dalla difficoltà nell'estrarlo e anche dalle condizioni geopolitiche del paese, non a caso la Libia, ai $130 al barile dell'Iran e Algeria, 122 per la Nigeria, 117 per il Venezuela, poi l'Arabia che ha un prezzo abbastanza basso, $106, $77 gli Emirati, $60 il Qatar e 54, quello più basso di tutti, il Kuwait. Domanda, la spaccatura ha avuto una connotazione geografica, quindi magari Venezuela da una parte, o se no come si è verificata? Solo sulla base del prezzo di break even per l'estrazione? Sì, farei un piccolo passo indietro, una precisazione. Quando parliamo di break even per i paesi dell'OPEC, con le cifre che hai appena citato, parliamo del break even per il bilancio statale? Sì, certo, certo. Non dei costi estrattivi. No, hai ragione. E invece quando parliamo degli americani parliamo di costi estrattivi. Per cui è una differenza importante su cui volevo richiamare l'attenzione, perché sono veramente in difficoltà tutti, compresi i sauditi, per far bilanciare il bilancio statale, ma i sauditi e gli altri paesi del Golfo Persico, che sono lo schieramento che probabilmente ha lanciato la guerra dei prezzi, hanno enormi riserve valutarie che gli permettono di tirare avanti anche a lungo, anche relativamente a lungo, con prezzi del petrolio bassi, nella speranza, nella scommessa, con l'obiettivo di costringere altri a tagliare la produzione. Questi altri sono in primo luogo i crackers americani, i produttori di shale oil. Allora, su questo, chiaro che molte domande riguardano il prezzo della benzina. Il mitico De Vita, mitico perché negava che vi fosse una resistenza a calare del prezzo della benzina, era il rappresentante dell'Unione Petrolifera Italiana, è compianto, nel senso che non c'è più, e l'abbiamo anche ricordato perché abbiamo avuto anni e anni di battaglie radiofoniche su questo. Però, Sissi Bellamo, molti ci stanno chiedendo, ma perché con un prezzo così basso a 78 non vediamo un dato alla pompa, fermo restando che il 30% del prezzo della benzina è prezzo del petrolio, il resto sono accise, IVA e quant'altro. Lo vedremo, non lo vedremo di analoghe dimensioni, è chiaro che il prezzo della pompa non può scendere nello stesso giorno in cui scende il petrolio. E purtroppo per il forte peso, forte e crescente peso di tasse e accise, perché se non sbaglio anche l'ultima legge di stabilità le ha ulteriormente aumentate, purtroppo questo effetto ribassista sui prezzi alla pompa non solo arriva un po' ritardato, ma arriva molto molto attutito. E quindi attenzione, ritardato perché si parla dei prezzi attuali, ma la benzina che noi consumiamo è stata comprata in precedenza, attutito perché solo il 30%, ma insomma si può titolare spaccatura. C'è un effetto cambio, Sebastiano, e poi c'è, anche sì, hai ragione. E poi c'è l'effetto cambio con un dollaro un po' più forte, l'euro è 1,24, devo dire che però se lasciamo stare il prezzo della benzina, a noi un petrolio a queste cifre ci fa solo che comodo, perché riusciamo ad avere l'euro un po' più debole senza pagarlo in termini di bolletta energetica, perché nel frattempo cala il prezzo del petrolio che si paga in dollari. Ma il titolo spaccatura nell'OPEC sarebbe una forzatura? Non lo so, è possibile che una parte dei paesi che inizialmente erano contrari siano stati portati dalla stessa parte dei sauditi, siano stati convinti che è meglio soffrire un po' di più adesso, perché anche se avessero tagliato la produzione non sarebbe servito a nulla. E questo insomma sembra essere vero per la Nigeria sembra essere stata convinta che forse questa era una strada da evitare, l'Iran non è stato convinto, ha detto questa non è la soluzione che volevamo uscendo. Però la tattica, o meglio la strategia, perché la tattica è di accettare ulteriori cali del prezzo del petrolio, la strategia è di mettere in estrema difficoltà l'estrazione americana. Grazie a Sissi Bellomo in collegamento con noi da Vienna, dove appunto si è tenuto il vertice OPEC. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna come ogni giorno domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente. Focus Economia.